Strip Trip, un viaggio nel mondo dei fumetti con Alessandro Chiarella. Hey là, buonasera ragazzi. Benvenuti a Strip Trip, sesta puntata, siamo su Radio Bawalla, di là c'è il Davide che vi saluta, io sono Ale, stasera abbiamo anche un'altra entità che ci segue, dopo vi racconterò, ve la presenterò, è una cazzata, vi anticipo già che è una stronzata, però vabbè, magari è probabile che ci seguirà da oggi in poi anche questa persona, questa cosa. Vabbè, allora, benvenuti, stasera parliamo ancora di cinema, vi ricordate? Abbiamo già cominciato a parlare di cinema e fumetti, mi raccomando, cinema collegato ai fumetti sempre, nella scorsa puntata. Non avete sentito la scorsa puntata? Papam! Ecco che la tecnologia innovativa di Radio Bawalla vi presenta il podcast. Sul sito di Radio Bawalla potete sentire tutte le puntate vecchie, stravecchie, anche la prima che è terrificante, ma non importa, se volete ascoltarle e farvi del male fatelo. E beh, dicevo, partiamo col cinema. Abbiamo iniziato con Alan Moore e con i film tratti dai suoi fumetti, quindi fumetti supereroistici. Ma oltre questo c'è anche un'altra parte di fumetti non supereroistici, e anche da questi fortunatamente vengono tratti dei film. Stasera parleremo proprio di uno di questi film, uscito nel 2010 mi pare, ed è un fumetto che io ho molto apprezzato, e tra l'altro il film è, devo dire, tra i miei film preferiti. Tutto sommato mi ha fatto molto ridere, mi è piaciuto molto, grandi effetti speciali, quindi lo metto sicuramente nell'Olimpo dei miei film preferiti. Si tratta di Scott Pilgrim vs. The World. E insomma, ce la chiacchieriamo dopo questa canzone, che è Demon Asleep, sempre dei Fresh Body Shop, che già conoscete. Ciao. Wow. Fresh Body Shop. Vi piacciono? Continuo a piazzarli nelle puntate oppure no? A me piacciono, quindi io continuo a tartassarvi con loro perché a me piacciono. E tra l'altro vi ricordo che tutti i pezzi che passiamo su Radio Bawalla sono Creative Commons, quindi potete trovarli free, sono assolutamente privi da ogni diritto e bla bla, quindi scaricateveli, ascoltateveli, se vi piacciono cercateli su Jamendo. Andiamo avanti, dicevamo, parliamo di film, parliamo di Scott Pilgrim vs. The World, un film del 2010, come vi ho anticipato prima, diretto da Edgar Wright e tratto dal fumetto Scott Pilgrim di Brian Lee O'Malley, un fumetto statunitense ed è diviso in sei capitoli, sono sei fumetti. Sono pubblicati in Italia da Rizzoli Lizard, cioè questo è quello che ho trovato io su internet, però non ho trovato sul sito della Rizzoli il fumetto in vendita, non so se si trova in fumetteria, ma in ogni caso su amazon.it lo potete trovare. Piccolo problema, è in inglese, quindi vabbè, io l'ho letto in inglese, si capisce, riesco a leggerlo tranquillamente, anzi alla fine del fumetto mi veniva da parlare come i protagonisti del fumetto, ma non importa, queste sono piccolezze. Tra l'altro c'è anche in formato Kindle, quindi se qualcuno di voi ha un lettore, un Kindle di Amazon, può riuscire a scaricarlo spendendo un pochino di meno, altrimenti ho trovato anche la raccolta. Il problema è sempre in inglese, quindi bisogna sapere l'inglese, ahimè. Io comunque ve lo consiglio, se non riuscite o non sapete l'inglese, ai voi, non riuscite a leggere il fumetto, guardatevi il film, che lo trovate, immagino sapete come. Sono entrambi fantastici, a me sono piaciuti molto tutti e due. Io ho guardato prima il film e poi ho letto il fumetto. Di solito questa cosa mi infastidisce un po', perché preferisco prima leggere l'opera letteraria, diciamo, che sia libro o fumetto, e poi guardare il film. Però in questo caso non mi hanno dato fastidio, perché entrambi giocano su aspetti diversi. Insomma, il fumetto ovviamente ha più storia, è più articolato, ci sono alcuni personaggi in più, i disegni mi piacciono molto, anche se è statunitense, fa un po' il verso a un manga, anche il formato cartaceo è tipo manga, una via di mezzo tra manga e umoristico, però si vede che non è manga, ecco, è molto ben giocata, è molto simpatico il disegno, lo stile è particolare, e a mio gusto il bianco e nero è molto bello, mi piace molto come bianco e nero, pulito, bello bello, e poi io ci ho riso, anche qua ci ho riso tantissimo. E boh, dai, ci ascoltiamo un pezzo, poi vi racconto qualcosa del film. Questi sono i Sinkhole con Waterbug. Have a nice day, it's late in the evening and you should be home by now. Don't chase the girls. Yeah. Allora, mi è piaciuto? Questo viene un po' dal mio background punk da sedicenne impazzito. Beh, dai, è carino, bel pezzettino. E poi c'entra molto con l'argomento di cui stiamo trattando, perché? Perché il film di Scott Pilgrim è molto, molto basato sulla musica, perché il protagonista è... suona in un gruppo e bla bla, poi vi racconto la storia. E in sostanza hanno creato il gruppo del fumetto, l'hanno fatto davvero, cioè esiste realmente questo gruppo, e hanno fatto il CD del film, e in cui ci sono loro che suonano, e si chiamano Sex Bob-omb. Se volete cercare un attimo su internet di sicuro li trovate, e tutto sommato a me piacciono, anche se è un gruppo inventato apposta per un film. E questo è uno appunto degli aspetti che il film ha in più rispetto al fumetto, cioè la musica, vera musica, quindi creata apposta e gruppi veri. E il film ha perso qualcosina della storia, ovviamente, perché in 2 ore di film o quant'è non si può raccontare quanto si racconta in 6 puntate di fumetto, comunque in 300-400 pagine che siano. Però la storia è ben integrata, hanno tolto dei pezzi, tolto anche dei personaggi, ma non si sentono i buchi narrativi come in altri casi accade quando si traspone uno scritto in cinema. I personaggi poi sono molto azzeccati, gli attori, anche qua ho apprezzato molto la scelta della protagonista femminile, di cui vi parlo dopo. E poi, come vi ho detto, la grande colonna sonora e gli effetti speciali esagerati. A me è piaciuto molto anche sotto questo aspetto, perché la storia è assurda e gli effetti speciali accompagnano questa assurdità in maniera veramente agevole, ecco. fa veramente ridere, quindi ve lo consiglio. Poi la regia è davvero strong, ci sono delle scene d'azione, da vera azione, cioè da combattimenti o giubbotte, inquadrature particolari, molto, molto ben gestito. E poi come regia ci sono proprio delle parti che ricordano tantissimo il fumetto, che riprendono proprio inquadrature e situazioni del fumetto, e questa cosa a me piace sempre tanto, è una cosa che trovo in tanti film tratti dai fumetti, e rispetto tanto il regista per queste cose, perché vuol dire riconoscere il lavoro di qualcun altro, cioè di chi prima di te, su una piattaforma diversa, con un metodo diverso, ha raccontato la stessa storia, e riconoscergli il buon lavoro fatto e dire guarda, hai fatto bene, lo faccio anch'io, è sempre una buona cosa. Vi racconto un po' della storia. Scott Pilgrim ovviamente è il protagonista, è un po' una storia, sembra un po' una storia adolescenziale, amore, musica, come già ne abbiamo parlato, torna molto nei fumetti questa cosa, però è articolata in modo molto più strano sto giro, perché le situazioni sono molto molto strane. Scott è il bassista di questo gruppo, i Sex Bob-omb, come vi ho detto, e si innamora, cioè prima si mette con una ragazzina, Scott ha 21-22 anni, e si mette con una ragazzina di 17, quindi i suoi amici e il suo gruppo lo prendono per il culo, che cazzo fai con questa qua, e appunto che cazzo ci fa con questa qua, perché a una festa incontra Ramona Flowers, che è la protagonista femminile, diciamo, che vi ho detto apprezzo molto la scelta dell'attrice. Questa ragazza molto strana, molto particolare, arriva da fuori, arriva da New York, mi sembra, perché ovviamente non ve l'ho detto, è tutto ambientato a Toronto, quindi in Canada. Scott a un certo punto riesce a conquistarla, si innamora perdutamente, la sogna e cose così, però a questo punto scatta la scintilla della storia, su cui poi gira tutto il resto del film e del fumetto. Per stare con Ramona, Scott deve battere i suoi 7 malvagi ex. Ecco qua che compaiono i combattimenti, veri combattimenti, proprio stile videogioco, tipo Street Fighter, Tekken 3, non so se avete presente, comunque cose del genere. In mezzo al film, cioè senza un senso vero, compaiono queste cose, compaiono i punti, compare la vita, proprio la barra della vita come c'è nei videogiochi, e alla fine del primo combattimento, a caso, ma senza un vero motivo, se non proprio Deus Ex Machina, perché poi gli servirà alla fine della storia, Scott Pilgrim vince una vita. Ma che senso ha? Beh, insomma, questa assurdità accompagna poi tutto il fumetto. è una storia ricca di riferimenti ai videogame, come vi ho detto. Io questo l'ho apprezzato molto, perché da buon quasi nerd pseudo geek apprezzo i fumetti e gioco tanto anche ai videogiochi quando ho tempo di farlo, e ho riso davvero tanto. Beh, c'è Steve che mi sta dicendo che è ora di mandare un altro pezzo. Chi è Steve? Ah, Steve è l'entità di cui vi parlavo prima, è il nostro scoiattolo che è qua con noi e mi guarda, è proprio seduto qua di fronte, sulla sedia qua di fronte, e sul suo letto di pigne e pini, che mi guarda beffardo col naso arricciato e la coda vaporosa. E sotto di lui, appunto, c'è questo letto di pigne che è apprezzabile, un gran belle pigne. Sì, sono scemo, sono un cretino. Dai, ascoltiamoci il pezzo e vi passo Steve tra poco. Out of Control, Delirium. Control. I was out of control. No more I saw you. No more I hit you. Touching your hair, oh, how I control. I was out of control. No more I saw you, no more I ate you. bentornati. Stavamo parlando di Steve. A Steve piacciono le pigne ed è un fan dell'Inculator. Fate voi il collegamento? No. Non sapete cos'è l'Inculator? Andate a sentirvi puntata 3 o 4, non lo so, c'è il podcast, quindi andate a sentirvi la puntata 3 o 4 in podcast e scoprite cos'è l'Inculator, e se ne diventate fan chiamate Steve che vi aiuta con le pigne. No, dai. Questa mi è uscita male. Abbiamo finito con col cinema per stasera, vi ho raccontato di Scott Pilgrim e adesso parliamo d'altro, cambiamo completamente argomento. Abbiamo parlato un po' di software, un po' di ispirazione, film, fumetti vari, e oggi parliamo di qualcos'altro ancora, di social, un social sull'immagine. Io lo utilizzo tantissimo. Si chiama Pinterest, sicuramente ne avete già sentito parlare, da qualche anno è attivo e io mi sono iscritto da un annetto più o meno, l'ho scoperto quindi da relativamente poco, e in sostanza funziona un po' come un Twitter delle immagini, solo che invece di scrivere noi possiamo pubblicare immagini, pubblicare o ripinnare. Per questo pin vuol dire appendere alla bacheca, in un certo senso, e si può pinnare da altri siti. Quindi vedete un'immagine che vi piace sul sito di bla bla, che ne so, potete pinnarlo sul vostro account di Pinterest, oppure siete su Pinterest, vedete qualcun altro che ha pinnato una cosa fichissima, allora lo ripinnate sulla vostra bacheca, diciamo. Anche qua la bacheca funziona che è divisa in board, in sorta di cartelle in cui appunto pinnate le immagini, ripinnate le immagini. Cioè si trova di tutto, immagini di qualsiasi tipo, da la ricetta, dal piatto fotografato perché mi piaceva tantissimo come era fatto, la ceramica, intarsiato, che cazzo ne so, alla foto del cane cuccioloso, alla foto della montagna, foto naturalistiche, al disegno, al fumetto, eccetera eccetera eccetera. Questo è come funziona in generale. Potete farvi le board, chiamarle come volete, quindi cosa che mi piace, le macchine, le moto, le montagne, la natura, eccetera. Oppure io vi racconto come lo uso io invece. Per me è una raccolta di ispirazioni, in un certo senso. Ho diviso tutte le mie board, le mie cartelle per personaggi, per background, piuttosto che illustrazioni, piuttosto che personaggi dei fumetti, oppure le moto, la tecnologia, cose del genere. In questo modo mi faccio una sorta di archivio mio di tutto quello che mi piace, da cui posso copiare, da cui posso prendere spunto, e cose del genere. Io tutto questo prima lo facevo sul computer, ovviamente avevo giga di immagini scaricate, di video, di cose, e invece così ho tutto lì, e soprattutto posso pinnare dal telefono, che ne so, sono in treno, mi sto annoiando, mi guardo Pinterest e mi pinno questo, mi pinno quello, mi pinno quell'altro. È molto interessante, a me fa risparmiare un sacco di tempo, perché poi quando devo disegnare qualcosa e so che l'ho già visto da qualche parte, vado lì, lo trovo subito tra le mie board è comodo, ecco. Poi beh, è divertente, si trova un sacco di roba figa. Potete farvi ovviamente un account, cercare le altre persone da seguire, che da quel punto vedrete cosa loro pinnano, e viceversa, se loro vi seguono vedranno cosa voi pinnate. Potete cercarmi Alessandro Chiarella, mi trovate, l'immagine sempre quella del profilo di Facebook, eccetera. Magari se riuscirò più avanti e riuscirò a seguirlo, ne farò anche uno di Strip Trip. Intanto, se volete seguire Strip Trip, mi raccomando, pagina Facebook, siamo sempre lì, pubblico sempre roba, e seguiteci, dai, qualcosa di interessante lo trovate. Vi passo ancora un pezzo che è Legacy of Luck dei The Windy City. Saving grace, cold to the touch. No king, just queen. filter through the faces lost inside this room. I hear a cry from outside. Overboard shall this man fall? His nervous smiles soften the ice while music runs through these grand halls. And then I see what others saw. Our Lady Luck is now no more. Legacy of luck. Wise men once said that life's journey's made without us. Chances only to end up wealthless. Legacy of luck. Wise men once said that life's journey's made without us. Legacy of luck. We take the chance. Allora, mi è piaciuto un po' diverso dal solito sto pezzo, però beh, a me piaceva, io ce l'ho ficcato in mezzo. E perché? Perché vi ricordo che ho scelto io le canzoni, sono molto fiero di questa cosa perché mi piacciono molto tutte quante, quindi se c'è qualcosa che non va dovete prendervela con me e soprattutto con Steve, perché a Steve piacciono le pigne. E, allora, basta con le stronzate, siamo in chiusura e stiamo andando avanti con Street Trip, stanno nascendo tante cose, ci sono tante idee e ci sono tante cose nuove in arrivo, spero di riuscire a farle tutte, spero di riuscire a seguirle tutte e non so ancora come andremo avanti. Mi piacerebbe che ci fosse più movimento sulla pagina di Facebook, anche per capire cosa piace a chi ci ascolta, cioè a voi e a Steve, e vedere cosa pensate del programma, quanto sono noioso da 1 a 10 e se volete che Steve cominci a parlare anche lui oppure che rimanga lì sulla sua sedia di fronte a me a guardarmi. E beh, insomma, mi piacerebbe che interagiste un pochino di più con la pagina Facebook, non che adesso, no, in realtà non fate un cazzo, perché io pubblico solo roba, ogni tanto c'è qualche like, quindi dai, che cazzo, scrivete qualcosa, dai, scherzi a parte, mi piacerebbe che mi diceste cosa vi piace, cosa è meglio, cosa volete ascoltare, c'è qualcosa che volete sapere, dal che matita uso per disegnare a qual è il mio fumetto preferito, a che ne so, qualsiasi roba. Io ho alcune cose in porto, sto leggendo The Walking Dead, dovrebbe uscito il nuovo fumetto di Zero Calcare, ci sono un tot di cose, fiere che stanno venendo e insomma non so bene di cosa parlare nelle prossime puntate, quindi non vi dico parlerò di questo, parlerò di quello, parlerò di quell'altro. Vedo anche come si muove con voi, se avete voglia di dirci qualcosa, vediamo se riusciamo nell'impresa di trovare qualche invitato che vi possa raccontare qualcosa di interessante, oltre alle stronzate che dico io e dell'occhio languido di Steve. E basta, dai, chiudo qua, vi lascio ancora con un altro pezzo, mi raccomando, seguiteci in podcast e sulla pagina Facebook. radiobawalla.net, siamo sempre qua, sempre e comunque. Steve mi sta mandando in palla, basta. Ciao ragazzi, buonanotte, alla prossima. Questa è Forbidden Steep. I know you won't forgive me for what I plan to do. I know it's strange, believe me, but that's my attitude. Yeah. my darling, you can't control your tears. What lasted long and faithful had suddenly disappeared. Avete ascoltato Strip Trip, un viaggio nel mondo dei fumetti con Alessandro Chiarella, in onda ogni domenica alle 21.